sopra l'arcobaleno, laddove il cielo si fa più sereno. Ci sono sogni che non ho mai visto, e un mare che canta è tutto misto. Oh, dimmi perché, oh, dimmi perché le stelle cadono, non so il perché. Forse lassù c'è un posto per me, un angolo di cielo, tutto da vedere. Nella notte sento il vento suonare, ogni strada sembra voler parlare. Le luci si spengono, resta solo il blu, e il cuore mi dice non fermarti più. Oh, dimmi perché, oh, dimmi perché le stelle cadono, non so il perché. Forse lassù c'è un posto per me, un angolo di cielo, tutto da vedere. Se chiudo gli occhi vedo il Vesuvio, è un sogno lontano che fa un preludio. Il mare canta, la luna risponde, e l'arcobaleno lega tutte le sponde. Oh, dimmi perché, oh, dimmi perché le stelle cadono, non so il perché. Forse lassù c'è un posto per me, un angolo di cielo, tutto da vedere. Se lassù c'è un posto per me, un angolo di cielo, tutto da vedere.